con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema che lo distribuisce il film Blew My Mind, Il segreto dei miei anni di Lisa Brühlmann al cinema da giovedì 13 giugno 2019. Anastasia, ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Raccontiamolo in breve. Questa è una cosa strana rispetto a quelle, a tutte le altre di cui vi ho raccontato in passato, eccetera, nel senso che è un film diverso dalle biografie di cui spesso, insomma, parliamo insieme, ed è un film molto particolare che mi ha colpito molto. Perché nonostante, insomma, non sia più adolescente da un po' di anni, sono riuscita straordinariamente a immedesimarmi nel personaggio di questa ragazzina, 15enne mia, che sta vivendo appunto uno dei momenti più delicati della nostra vita, ovvero l'adolescenza. Credo che, no, non so se vi ricordate un po' tutti, quando il corpo comincia a cambiare e tu neanche lo riconosci. Un'esperienza direi condivisa da tutti e anche una vecchia genitore. Pensare ai figli e vede come anche loro un po' oggi si sentono a disagio. C'è un corpo, soprattutto delle donne, no? Cambia tantissimo e non riesci proprio a starci dentro, e davvero è una metamorfosi incredibile che crea anche spesso dei disturbi psicologici, dei momenti di difficoltà. E ci racconta appunto la storia di Mia che cambia con i due genitori, è figlia unica, cambia città e deve riadattarsi ad un mondo nuovo, in particolare ad una classe, ad una scuola nuova dove per un po' rimane quindi in disparte, non sa bene, si guarda in giro, è un po' introversa, non sa a che gruppo in qualche modo far parte, perché come spesso accade, è anche lì un altro tema importante del film, anche, no, un po' il bullismo, tutte le tematiche che hanno a che fare con quel momento particolare della vita. E quindi decide, in qualche modo rimane affascinata dal gruppo degli ribelli, di queste ragazzine ribelli, che in qualche modo per accettarla la sottopongono ad una serie di prove che lei decide poi di affrontare, no, per dimostrare di essere comunque una di quelle toste, di quelle che hanno diritto a far parte del gruppo. E sì, quindi racconta tutto questo percorso, quindi c'è una trama in qualche modo molto realistica che viene in parallelo, c'è una sottotraccia che sconfina un po' nella direzione del fantasy. Non so se voglio rivelare, perché io non sapevo niente quando ho visto il film, non sapevo nulla, come spesso mi accade, preferisco andare al cinema anche, oppure trovarmi di fronte a un film senza averne letto granché o senza saperne tanto, se non il troppo. Quindi mi sono lasciata trasportare e credo che forse di non sapere che cosa succede è ancora più diventa un po' più appassionante, perché la regista, bravissima, nel senso che è un esordiente, una ragazza 30, insomma, adesso non ricordo, più poco più che trentenne, decide di affrontare questo tema con una. Riesci proprio a coinvolgerti dal punto di vista non solo emotivo, come dicevo prima, ma anche crea una suspense e non sai mai dove stai andando a finire. E io mi sono lasciata, cioè, mi ha sorpreso. E quindi non svelo che cosa succede, ma succedono delle cose molto strane, che trasformano un film che potrebbe essere definito drammatico in una drama fantasy in qualche modo, con una serie di metafore, di termini che vengono poi continuamente utilizzate, e c'è un finale, anche quello abbastanza sorprendente, che alcuni interpretano come positivo, io assolutamente, per me è un happy end, anche per la regista stessa è un happy end, lei la vede molto anche come una metafora del femminile, della situazione della donna, al di là del tema dell'adolescenza, che è comunque centrale. Noi abbiamo deciso di lavorarci molto sul tema dell'adolescenza, perché appunto è tanto che abbiamo organizzato con un grande dispendio di energie, spero che verrà apprezzato, tantissimi eventi in tutta Italia, che partono proprio dalla data di uscita, dal 13 in poi, ogni sera praticamente, ad esempio a Roma, quasi tutte le sere, al Cinema Farnese, ci sono incontri con psicologi che affrontano il tema appunto da un punto di vista particolare, cioè presente il tema dell'adolescenza, ma da un loro punto di vista particolare. Poi abbiamo la Società Psicoanalitica Italiana che ha comunque patrocinato il film che insieme a noi organizza in varie città d'Italia, cioè la psicoanalista in sala, che è molto interessante come approccio, che racconta il film attraverso una chiave psicoanalitica, uno sguardo che solo un esperto ha, è diverso da quello del cinema di cui si possa, non si può leggere in qualche modo già sui giornali, sulla rassegna stampa. Quindi abbiamo fatto tutto questo percorso e spero appunto che sia, che dia anche un valore aggiunto anche al film, il dibattito poi finale che c'è davvero quasi in tutte le città. Anche perché l'aspetto probabilmente più insolito e sorprendente del film è che proprio il corpo in trasformazione diventa protagonista, ed è un protagonista quasi altro, anzi proprio altro, dalla testa e dalla vita di questa giovanissima. Sì, sì, assolutamente, sì, in realtà è lì la cosa fantasy che stiamo cercando entrambi, io credo, di non rivelare, però è la chiave del, cioè l'elemento molto originale del film, che tra l'altro è appunto coraggioso, perché non faccio la produttrice, ma l'ho fatto in passato, se una giovane regista mi avesse sottoposto una sceneggiatura simile, io non so quanto ci avrei creduto, avrei detto Madonna, come pensi che possa di essere credibile questa cosa, no? Senza magari gli strumenti, i mezzi del cinema hollywoodiano americano, un punto svizzero che ha vinto peraltro il premio come miglior film svizzero, quello dell'anno scorso, il 2018, ha vinto un sacco di premi internazionali, in Italia anche un premio importante, nel senso che ha vinto la sezione del premio principale Alice nella città. Quindi insomma credo che abbia molto senso che lo crediate, perché ecco, la cosa che sicuramente ha a che fare molto con la linea editoriale di Wonka rispetto a questo film è che è un altro di quei titoli che comunque ti fanno un po' pensare, che esce, dici e rifletti su quello che hai visto, non è semplicemente solo una storia che comunque è piacevole da seguire, che ti appassiona, ecco, c'ha anche tutta una serie di spunti, spunti di riflessione importanti. In quante sale? Siamo 22, che considerato anche il periodo, sai che è giugno, che tanti cinema chiudono, è diciamo una grande conquista, ci abbiamo lavorato molto e ce l'abbiamo fatta, nel senso che copriamo quasi tutto il territorio nazionale, soprattutto nel capozona naturalmente, però insomma. L'altra cosa che volevo aggiungere è anche la protagonista, è veramente incredibilmente brava, e anche lei è un miglior ambiente che è già stata comunque segnalata già ormai lanciatissima, ed è veramente bravissima, è stata segnalata a Berlino anche quest'anno come una delle 10 giovani attrici da seguire, insomma da non perdere d'occhio. Allora, ricordiamo il film Blue My Mind, Il segreto dei miei anni, di Lisa Brühlmann, al cinema da giovedì 13 giugno 2019 con Wanted Cinema. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie, grazie, ciao.